Zero. Quando sono su, pago la tarsù. Quando sono in allegria, paghi la tia. Breve, breve, brava. Brava, breve. Compro una vocale, la A di Ancona. Siamo alla lettera D. D di Domodossola. Fiato. Vedi che sono sempre fissata. Deborah non c'è e mi viene... Prova a dare la soluzione. Tari, tari, amici miei. Con Imu e Yuk sono già ciuc. La tia per mia zia. La tari ci brucia i denari. Giro. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Sei assicurato e forse non lo sai. Detto così, Nicoletta, può sembrare il titolo di un gioco, magari di un libro giallo. Perché no? Si tratta invece di un'indagine molto reale. Il detective che se ne è occupato è l'IVAS, che è l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che ha scoperto che a molti prodotti e servizi che vengono acquistati o sottoscritti dai consumatori sono in realtà abbinate anche coperture assicurative. E quindi essere assicurati e non saperlo, soprattutto non averlo scelto. Sì. È una situazione che riguarderebbe 15 milioni di cittadini. Forse ci siamo anche io e te. Io sono certa che da qualche parte ce ne abbiamo una. Allora, quindi che fare? Meglio controllare, e invitiamo anche voi a farlo, lo faremo anche io e Deborah, e perché anche voi come noi potreste essere tra questi. Allora, proprio così, perché queste polizze occulte, così sono state ribattezzate, sono legate ai servizi più vari. Nel mirino ci sono agenzie di viaggio, e forse qua ce lo possiamo anche immaginare, no? Che partendo, come dire, facciamo una copertura assicurativa. Ma ci sono anche concessionari auto, istituti bancari, aziende per la fornitura di energia elettrica, gas e acqua, aziende di trasporto marittimo aereo, aziende produttrici o distributrici di beni di largo consumo, ma anche associazioni sportive. E noi oggi a Cuore Denari cerchiamo di vederci più chiaro. Eh sì, allora, a proposito di vederci chiaro, molte persone non sanno che alcune malattie, come ad esempio il diabete, alcuni fattori di rischio, ipertensione o difetti visivi come la miopia, possono danneggiare seriamente la vista. Ne parleremo nella seconda parte della trasmissione con un grandissimo esperto, il professor Mario Stirpe, che è presidente della Fondazione Bietti per lo studio e la ricerca in oftalmologia, che opera, pensati, da oltre 20 anni nel campo della prevenzione, dell'assistenza clinica e chirurgica e della ricerca clinica di base nella disciplina oftalmologica. Quindi se siete miopi, ipertesi, diabetici, se avete superato gli ANTA, inteso come 50, restate per vederci chiaro, e cioè conoscere le regole di prevenzione e le novità in campo diagnostico. Che canzone romantica che hanno trovato i nostri ragazzi da abbinare al tema di stamattina. Potrebbe essere proprio lì, nascosta in un contratto che avete sottoscritto, in un servizio a cui vi siete abbonati. Una polizza assicurativa che potremmo definire non richiesta, per dirla in maniera un po' più forte, occulta. Oggi ci aiutano a capirne di più intanto i diretti interessati, quindi le compagnie di assicurazione. Ci sarà con noi a partire dalle 11.30 il dottor Roberto Manzato, direttore centrale Vita, Danni e Servizi di ANIA, proprio l'associazione delle assicurazioni italiane. Ma intanto partiamo subito con il mondo del consumerismo, ed è con noi, torna Fabrizio Premuti, presidente di Consumer Italia. Consumer con la K, Nicoletta, se la cerchi su internet. Mi raccomando, è K, segnate bene. Buongiorno a Fabrizio Premuti, allora. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori. Mi viene da ridere facendo Premuti una... con la P. Esatto. esatto. E Fabrizio con la F. Stavo pensando ad una, da fare una battuta di cattivissimo gusto, 15 minuti. No, ma non è niente di volgare. Perché da quando è tornata dalle vacanze? Sono un po' più peperina. Un po' peperina, bisogna. No, 15 milioni di Claudio Scajola in Italia, ma in realtà, insomma, lì non c'era proprio tanta buona fede nella scelta, diciamo, di copertura assicurativa alle quali ci riferiamo oggi. Allora, intanto non abbiamo interpellato gli ascoltatori, che possono naturalmente intervenire. Chiamarci all'800 24 00 24, scriverci al 349 238 6666, o seguirci su Facebook e su Twitter. Su Twitter stamattina, tra l'altro, Fabrizio Premuti ci sta twittando tantissimo. Allora, la domanda che facciamo agli ascoltatori è: se in passato o in tempi recenti vi è capitato di scoprire di avere sottoscritto una polizza assicurativa abbinata ad un altro tipo di servizio o prodotto, una copertura di cui nessuno vi aveva parlato, diteci come vi siete comportati, ma diteci anche se avete qualche dubbio in merito ad un servizio di cui siete attualmente utenti o fruitori, e sentendo questa notizia vi abbiamo messo un po' la pulce nell'orecchio. Il numero verde è sempre lo stesso, è l'800 24 00 24. Allora, Premuti, iniziamo inquadrando il fenomeno. Io dico subito che abbiamo interpellato l'IVASS, l'associazione, appunto, l'organizzazione che controlla il mercato assicurativo italiano, e non sono voluti intervenire. Si vede che non gli piace. Fanno questa bella indagine e non ce la vogliono raccontare. Hanno trasmesso tutti i dati di questa indagine all'antitrust, l'autorità garante del mercato. E sai cosa ci hanno detto? Noi in realtà non ne sappiamo niente, non abbiamo ancora studiato questa indagine, non possiamo intervenire. Va bene, comunque poi noi li aspettiamo, certo. Perché le porte di Cuore Denari sono sempre aperte. Per cui, non che loro siano stati ovviamente l'ultima scelta, perché sono stati la prima, però intanto dobbiamo inquadrare il fenomeno con Fabrizio Premuti. Io sottoscrivo un servizio, Premuti. Acquisto un pacchetto, un prodotto, mi viene presentato un costo e non mi viene detto che pagherò anche una polizza assicurativa. Ma parliamo di casi così frequenti, perché 15 milioni di italiani non sono bazzecole. No, assolutamente, ma intanto vorrei dire preliminarmente che l'indagine io credo sia ancora in corso, sia da parte di IVASS che anche da parte dell'autorità garante concorrenza e mercato, perché qui si è andati ad analizzare quella che è la punta dell'iceberg, e vedrete che i 15 milioni verranno poi moltiplicati per 2, se non per 3 addirittura, perché il campo del consumo che viene interpellato è assolutamente interessato, è enorme, è vastissimo. Basti pensare che c'è i viaggi di mezzo, c'è i veicoli, c'è le banche, lo sport, le public utility, quindi parliamo dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua. Forse faremo prima dire chi non è compreso. Esatto, probabilmente faremo molto prima a dire qualche settore che potrebbe essere escluso, ma forse non tanti. E poi i canali distributivi di questi prodotti, perché qui non parliamo più dell'intermediario assicurativo, non parliamo più dell'agenzia d'assicurazione, perché se c'è l'intermediario, in questo caso il prodotto lo fornisce a un terzo, che è il contraente, ma non l'assicurato, cioè contrae per l'effetto di un terzo, quindi per il consumatore. E i canali distributivi sono i più vari, perché vanno dall'agenzia di viaggi, se c'è i viaggi di mezzo, o i trasporti, pensiamo agli aerei, pensiamo alle navi, alle crociere, e fino al supermercato. Certo. Quando entriamo nel supermercato e compriamo un antifurto meccanico, compriamo il caricabatterie del telefonino, ecco, noi non lo sappiamo, ma probabilmente su quell'articolo c'è al di sotto anche una polizza assicurativa. Ecco, ma Premuti, secondo lei, noi non lo sappiamo perché abbiamo questa cattivissima abitudine, lo dico anche io in prima persona, che ne sono colpevole, di non leggere attentamente i contratti che sottoscriviamo per l'acquisto di qualunque cosa? Adesso è chiaro che per andare a fare la spesa non sottoscriviamo nessun contratto, paghiamo il conto alla cassa, ci danno lo scontrino e lì non è che si evidenzia se c'è un'assicurazione o meno. Certo. Ma per un bene di largo consumo di altro tipo, un bene durevole, un computer, un caricabatterie, come lei diceva prima, è possibile che, appunto, nelle pieghe del contratto di vendita di questi prodotti esista la dicitura contestuale stipula di polizza assicurativa e noi proprio non la leggiamo perché non ci interessa? Ecco, ma qui viene poi fuori l'altro grosso tema che scaturisce dall'analisi di IVASS, che molto spesso non è neanche esplicitato che lì ci sia una polizza d'assicurazione, Per cui in alcuni casi sì, è vero, noi siamo carenti da un punto di vista informativo perché non leggiamo. Sì, e perché quindi, ma probabilmente non siamo. Non è che ci invitano tanto a farlo, perché ci sono queste parole scritte piccole con un linguaggio molto tecnico, uno dopo le prime quattro righe. Ma guardi, va sulla fiducia. Guardate, vi faccio un esempio che probabilmente è lampante e fa capire bene il fenomeno. E questo è qualcosa che è accaduto probabilmente una decina d'anni fa, adesso lo ricordo in maniera molto netta perché riesce fuori con l'indagine, però il tempo è trascorso. È proprio un acquisto in un supermercato di un antifurto meccanico, allora veniva definito l'antifurto con gli attributi, non diciamo il nome perché non so neanche se lo vendano ancora. Ecco, a proposito di assicurazioni e viaggi, qua il parallelo ci viene anche molto rapido. Premuti, l'abbiamo spaventata? No, assolutamente, anzi salutiamo l'ultimo viaggio della Concordia, ma soprattutto ricordiamo le 33 vittime, perché credo che un segno di ricordo vada sempre dato a chi purtroppo ha perso la vita in quello che era un viaggio che rappresentava una spensieratezza. Esatto. Allora, tra l'altro, visto che stiamo parlando appunto di queste assicurazioni legate a servizi e beni che compriamo o sottoscriviamo, ma non sappiamo di avere una polizza assicurativa contestuale, andrei a fare qualche esempio anche per stuzzicare un po' i nostri ascoltatori. Premuti, che ne dice? Così stamattina si mettono tutti a tirar fuori vecchi contratti, magari firmati qualche tempo fa. Ecco, averli, vedi che bisogna sempre conservare tutto, ma io mi chiedo in che case dobbiamo vivere. Esatto. Oltretutto adesso che tutto è informatizzato, lo segnala anche un ascoltatore, no? Per quale motivo effettivamente non possiamo avere magari una schermata su qualche sito che ci dica esattamente tutto ciò che abbiamo sottoscritto, per esempio sull'ANIA. E questa segnalazione di Giorgio magari dopo la giriamo proprio alle imprese di assicurazione. Però allora cominciamo con i viaggi, Premuti, no? Io che ne so, prenoto un volo aereo, voglio partire a dicembre perché voglio andare in qualche città, lì dal contratto secondo lei vedo con chiarezza se c'è una polizza che in qualche maniera la compagnia di volo appunto mi ha fatto sottoscrivere per tutelare se stesso ovviamente, ma anche per tutelare me. Allora, quindi diciamo subito che dovremmo differire un po' il ragionamento viaggi da quello trasporti, perché io acquisto il biglietto aereo, in molti casi all'interno del biglietto aereo è già ricompresa una garanzia assicurativa per il caso morte. Ovviamente la durata del contratto assicurativo lì vige soltanto per il periodo del percorso aereo, non è che venga assicurata una polizza che ha una durata annuale, e la stessa cosa vale nel confronto dei pacchetti viaggi che vengono fatti ad esempio per le vacanze. Il problema vero è andare ad indagare anche in questo caso quante volte noi abbiamo la consapevolezza e il contratto esplicitato con quella trasparenza che permette al consumatore di essere in qualche maniera edotto di quella che è la garanzia che ha acquistato. E qui purtroppo l'IVAS mette in risalto qualcosa di estremamente grave, che non sempre viene esplicitato che si sta anche acquistando un pacchetto assicurativo insieme al pacchetto viaggi o al pacchetto trasporto. Perché a volte non c'è neanche scritto? Ma perché a volte non c'è neanche scritto. In alcuni casi qualcuno riesce anche a mascherarlo con la gratuità, cioè riesce anche a dire ma tanto è un prodotto che diamo gratuitamente in aggiunta all'acquisto che viene fatto. Ma questo noi siamo anche contenti. Il tema è che quando poi ci servirebbe far valere il diritto che arriva appunto dalla sottoscrizione di una polizza, magari abbiamo bisogno di un indennizzo, il fatto di non saperlo significa che non ne possiamo far richiesta. Premuti, perché il tema è quello, non il fatto di avere una polizza. Assolutamente, non ne possiamo far richiesta, e laddove pure potessimo far richiesta verrebbe fuori quello che non abbiamo appreso prima, quali sono i limiti della garanzia che viene espressa, perché la garanzia non sempre dà il 100% del rimborso rispetto a ciò che si è acquistato, ma la garanzia può intervenire con degli scoperti, con delle franchigie, con delle limitazioni che comunque inducono ad un rimborso che è notevolmente inferiore a quelle che sarebbero le aspettative. Ma tutto nasce dalla scarsa trasparenza iniziale nel momento dell'acquisto, perché è evidente che se io non posso scegliere, se io non posso apprendere qual è il prodotto che mi viene offerto e in alternativa non ne posso fare un altro, è evidente che sto prendendo ciò che mi viene dato, che sia gratuito. Come si dice, a scatola chiusa. Peccato che non sappiamo di aver preso quella scatola. E questo è l'altro problema grande che viene fuori dall'indagine, che nell'87% dei casi nessuno ne sa niente. Infatti. Quindi, allora, adesso qualcosa, grazie anche ai nostri ascoltatori premuti, andremo un po' ad indagare sui settori che sono proprio particolarmente opachi, magari, no? Mi piace, ti è piaciuta? Opachi. 800 24 00 24, il nostro numero verde invece per fare chiarezza, e andiamo a Salerno. Sì. Ci aspetta Luigi, buongiorno Luigi. Buongiorno. Buongiorno a lei. Io chiamo da Salerno. Sì. Volevo sapere qualcosa sulle assicurazioni, perché non ne capisco. Faccio la guardia giurata, faccio il mio lavoro, sono 40 anni, 41 anni, e ho purtroppo 5 anni fa avevo bisogno di, ho varie proprietà, avevo bisogno di 100.000 euro liquidi. Vado a una banca, comunque una banca, e mi fa questa operazione, un mutuo sulla casa, e mi fa pagare una polizza vita, una polizza sulla mia persona, perché io lavoro da solo, no, mia moglie non lavora, e ho pagato un sacco di soldi di questa assicurazione. Il 27 ottobre mi sono fatto, ho avuto un infortunio, un grave infortunio, sono rimasto invalido, molto invalido, comunque lavoro ridotto, lavoro pochissimo, la mia azienda comprende queste cose, lavoro poco, prima facevo 70, 60, 50 ore di straordinaria, adesso non faccio più niente, neanche le mie ore. Volevo sapere dal dottore se io posso usufruire, tanto mi ha pagato l'infortunio, volevo sapere se posso usufruire di questa assicurazione che ho, che io ho pagato e sto pagando ancora il mutuo per 20 anni, 21 anni, e non ho, non so se sulla persona posso chiedere qualcosa alla mia assicurazione. Certo. Allora Luigi, grazie. Premuti, il tema della polizza associata al mutuo ha, come dire, arricchito molte trasmissioni della nostra radio. In passato a Salvadanaio ci siamo occupati, c'è stata una grandissima polemica su questo argomento, su chi dovesse vendere o meno queste polizze. C'è stata una grande battaglia fra l'ABI da una parte, l'Associazione delle Banche Italiane e l'ANI. Ha detto questo, andiamo al caso appunto subito del nostro ascoltatore di Salerno. Quella è una polizza legata al mutuo, non all'attività lavorativa dell'ascoltatore. Esatto, molto probabilmente è una polizza a tutela del credito, quindi è una polizza a tutela della banca e non dell'ascoltatore. È chiaro che l'ascoltatore lì interviene in seconda battuta, perché laddove non fosse messo nelle condizioni di poterlo pagare, questo mutuo, interviene la compagnia assicurativa e paga la banca, non paga l'ascoltatore. Quindi io credo che lui non ne possa usufruire, perché, no, anche perché in genere le polizze legate, le polizze che si sottoscrivono in fase di rogito sono quelle scoppio incendio, no? Quindi praticamente qualora capitasse qualche danno all'abitazione. Ecco, tra l'altro io voglio sempre ricordare, sono polizze non obbligatorie per legge, sono polizze non obbligatorie per legge. Lo so, però la banca alla fine poi uno le firma, perché sennò la banca ti dice non ti do il mutuo, per cui questo è il grande ricatto. È un ricatto però a cui uno poi cede. Lo sappiamo tutti. Ma diciamo che anche la necessità, però ahimè è molto brutto dover pensare che per necessità si debba cedere alla prepotenza. Però lei premuti lo sa, insomma, perché tante persone vengono nei vostri sportelli appunto e vi dicono che ricatto no. Ma guardi, se funzionassero queste polizze, poi appunto con Manzato lo diremo, se facessero il loro dovere quando ne abbiamo bisogno, noi siamo ben contenti di proteggerci, perché nessuno vuole demonizzare lo strumento, Nicoletta. No? Assolutamente no, assicuriamoci. Assicuriamoci, però ecco, il tema è che siano contratti trasparenti, che sappiamo di averli. Sappiamo di averli, e quindi nel caso del bisogno possiamo approfittarne. No, magari per concludere, solo per l'ascoltatore di Salerno, direi premuti, un controllo può anche farlo con l'intermediario con cui ha firmato il contratto. Non direi, costa nulla. Temo che però non è un infortunio. Ancora di più, si rivolga a uno dei nostri sportelli, neanche di vicini, li vede da internet. Ottimo. E io lo facciamo noi il controllo, non c'è problema su questo. Benissimo. E andremo ad indagare se quel tipo di copertura dà anche una facoltà a lui di poter ricevere un indennizzo. Ma come carino. Generale, ahimè, credo di no. In linea generale, ahimè, sì, infatti, di no. È una situazione un po' quando più complessa. Quando dice glielo faremo noi, uno si sente subito sollevato. Carino, andiamo a sentire che cosa ci racconta Paolo. Andiamo, ci chiama Toscana, da Prato. Sì. Buongiorno, Paolo. Buongiorno, buongiorno. Salve, mi è successa una cosa triste, bruttissima. Il vice direttore di questa banca, se posso fare il nome, Monte dei Paschi, di Siena. Ormai non possiamo neanche dire se posso fare il nome Monte dei Paschi di Siena. Va bene. Niente, non nascondo, per un ampliamento di fido temporaneo, dopo diversi giorni di pratiche, facendomi scendere dal terzo cielo questo favore, arrivo, viene a firmare un documento, ma quale documento, che avevo già firmato tutte le richieste. Praticamente alla mattina scendo il piano sotto, c'è i ragazzi della cassa, faccio fare nel stato, trovo addebitati 185 euro, una cosa del genere, per un'ipotetica assicurazione per un ampliamento di fido transitorio. Qui ragazzi stiamo rasentando veramente incredibile. Li ha versati Paolo? No, sono andato su, ci ha riprovato a farmi firmare questa polizza, gli ho fatto stornare il tutto, non ho accettato l'ampliamento di fido che per fortuna non ne ho avuto più bisogno. Vede? Però questa cosa qui avviene puntualmente con gente ignara che è anche presa dal bisogno, e queste persone non lavorano assolutamente in un modo corretto e leale. Questo è brutto dirlo, però diciamo che quantomeno è brutto dirlo, ma fa bene dirlo, perché dobbiamo diventarne consapevoli. Lui comunque almeno gli è stato detto con un certo anticipo che doveva firmare questo contratto per questa copertura assicurativa per l'ampliamento di fido, non se l'è trovato lì nelle pieghe del contratto una volta che l'ampliamento lo aveva ottenuto, e quindi questo già ci sembra una buona cosa. Quantomeno premuti Paolo un po' ha potuto negoziare, si è arrabbiato e ha detto no. Conferma il fatto che nulla è obbligatorio per legge. Sono tornati indietro, no? Quindi a volte per pigrizia, per mancanza di conoscenza, per paura, per necessità, scaramanzia, sì, anche un po', perché non ci si assicura in Italia anche per questa ragione, dobbiamo ricordarlo. Però la seconda telefonata conferma che il settore bancario sicuramente rientra tra i settori più colpiti dalla scarsa trasparenza dei prodotti assicurativi che vendono in abbinamento a prodotti bancari. Tra l'altro, perché uno deve fare un'assicurazione per esempio? Allora, io capisco per la casa, è ragionevole, no? Che ci sia una copertura assicurativa per tutte le situazioni problematiche che si possono manifestare una volta che uno diventa proprietario. Perché una polizza deve essere sottoscritta aprendo anche un conto corrente dove io ci metto, che ne so, l'addebito dello stipendio, premuti? Per quale motivo quel conto deve avere legata anche una polizza? A cosa serve? Ma intanto è un altro fattore del business non indifferente, perché l'intermediazione di questi prodotti assicurativi, che sono fatti in formula collettiva, dà dei vantaggi in termini di remunerazione che sono altissimi. E va bene, ma io mi chiedo cosa può succedere ad un conto corrente tale per cui devo far valere la polizza? Che cosa, se ci addebito tre bollette e lo stipendio? E ci accredito lo stipendio, cosa mai gli potrà succedere? Potrei avere un'invalidità che non mi permette di proseguire nella mia attività lavorativa e quindi non riuscire a coprire quelle bollette o quei RID che io ho domiciliato presso la banca. Ecco. In questo caso la garanzia assicurativa va a coprire proprio queste spese che io non sono più in grado di poter assolvere. Nello stesso modo anche la perdita di lavoro potrebbe essere uno dei fattori che vengono ad essere assicurati proprio per garantire il mancato pagamento di obblighi che io ho assunto in precedenza. No, perché sono tutele importanti, quindi è molto importante che noi sappiamo di averle. Esatto, in termini assoluti è assolutamente corretto che uno pensi di assicurarsi per questi eventi che sono anche gravi rispetto poi all'evoluzione della vita individuale di ognuno di noi. Il problema vero è sempre lo stesso, è il livello di trasparenza con cui sono venduti, quindi la conoscenza di quelle che sono le garanzie che sono all'interno del prodotto e soprattutto le modalità per le quali queste garanzie possono essere attivate e quindi diventare fruibili per il consumatore. E parliamo di consapevolezza, certo. Adesso a prescindere dall'intermediario che tratta il prodotto e che vende il prodotto, perché in molti casi, e questo va anche detto, la legge non prevede obbligatoriamente la presenza dell'intermediario assicurativo. Quando il prodotto è un prodotto a pacchetto che non può essere modificato nelle garanzie, può essere venduto anche al di fuori del circuito dell'intermediario. Poi spiegheremo che cos'è il prodotto a pacchetto. Premuti, si fermi lì. Che si fa adesso? Adesso faccio un po' la valletta, vuoi? Cuore e denari. Assoluti e sinceri, occhi amati e sognati, occhi desiderati, la bellezza è cattiva, la mia strada non ci arriva, il mio amore. chi non sa di essere assicurato e c'è chi rischia, senza saperlo, di compromettere la salute della retina, che è la parte nobile dell'occhio, fondamentale per la visione, per i dettagli. Anche lei, come tutte le parti del nostro corpo, invecchia, anche lei si può ammalare. La diagnosi precoce è una delle condizioni indispensabili per tutelare la sua salute. Spesso riuscire ad intercettare sul nascere una patologia oculare può significare ridurre a zero il rischio di ipovisione e di cecità. Nel prossimo futuro, grazie a una tecnologia sviluppata, pensate, per lo studio dello spazio, sarà possibile fare diagnosi più accurate e soprattutto tempestive, e quindi, intervenendo precocemente, sarà possibile salvare la vista di molti pazienti. Prenotate le vostre chiamate oggi nella seconda parte della trasmissione. A Cuore Denari un grande esperto, il professor Mario Stirpe, che è presidente della Fondazione Bietti per lo studio e la ricerca in oftalmologia, oltre che un grandissimo esperto di retina. Avanti, non perdere tempo, firma qua. È un normale contratto, è una formalità. Tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di te un divo da hit pare. A volte un po' proprio come Pinocchio con il gatto e la volpe, anche noi firmiamo dei contratti. Siamo un po' anche te, io e te, il gatto e la volpe. Guarda, due pesciolone proprio, altro che il gatto e la volpe. Perché firmiamo dei contratti con un po' di leggerezza, anche se qua pensano, non lo so, hanno questo pregiudizio nei miei confronti, che pensano che lavorando qua io faccia dei grandissimi investimenti, che nessuno mi frega. E invece io devo dire che me la porto ovunque, Deborah. Ecco, e prima sì. Di fare le cose mamma ormai dico, mia, senti Deborah. Noi. Anche perché poi lei mi dice, ma tu hai firmato? Ma tu hai letto? Ma ne hai parlato? Come se io facessi tutto questo. Ma la vogliamo raccontare la storia della tua lavasciuga? Allora, io ho una lavasciuga con cui mi trovo molto bene. Certo, una amica del allora, cuore. E avevo già prolungato, sai che ti dicono, c'è una se cosa. Se si rompe c'è la garanzia. Di un anno in più l'avevo fatto e... si è rotta proprio, si è rotta a scadere. Proprio. Sono stata fortunata, è la prima volta nella mia vita, quindi me l'hanno riparata. Dopo qualche tempo arriva di nuovo una letterina in cui mi dicono, gentile, non so, cliente, vorrebbe al prezzo di 90 euro prolungare la garanzia della sua lavasciuga. E io, sai come fanno, no? Queste cose qua le metti in cucina, poi le passi in ingresso, eccetera, ho perso il tempo. E la mia lavasciuga si è rotta. E quindi non allora che è successo? Allora io già mi sentivo mio marito che diceva, perché avevamo detto di farlo, non l'hai fatto, eccetera. Allora ho chiamato il numero verde, mi hanno detto, signora, ma guardi, proprio per lei, io ho fatto finta di crederci perché mi sentivo lusingata, c'è questa seconda opzione. Lei può pagare una quota un pochino più alta, invece che mi sembrava 90, 160, fai conto. E comunque noi veniamo a ripararle gratis la sua lavasciuga e diventa assicurata per un anno. Io l'ho fatta perché tu eri in vacanza, non ho potuto chiedertelo. Ah, è successo proprio settimana scorsa? L'ho fatta. E comunque sembrerebbe che per disdire questa assicurazione nei prossimi anni io debba mandare una ricevuta, una raccomandata con ricevuta di ritorno e dire, attenzione, non mi prendete più i soldi dal mio conto. Entro perché quanto tempo prima devi farlo? Per esempio, se la polizza scade qua, il 30 ottobre, tu il recesso? Questa qua non ho letto proprio bene. Già vi ho raccontato uno spaccato di vita. Però tu adesso sei... vedi? Ecco, che però sono proprio... grazie a te mi sono venute in mente un sacco di domande da fare al dottor Roberto Manzato dell'ANIA, l'Associazione delle Imprese di Assicurazione Italiane. Dottor Manzato, buongiorno, la responsabilità di tanti ambiti appunto in ANIA, l'abbiamo anche intervistato qualche settimana fa a Roma sul tema dei fondi pensione, ma oggi invece ci spiegherà un po' meglio come ci dobbiamo regolare con questa faccenda delle polizze più o meno occulte, perché quella di Nicoletta era molto chiara, ma lei in realtà si interroga su quando esercitare il diritto di recesso. Questa, no, proprio la detta polizia, così, detta così bene. Dottor bravo. Manzato, eccoci a lei. Ci sente? Buongiorno ai vostri ascoltatori. Eccoci qua. Senta, adesso a parte il caso di Nicoletta, che commenteremo con lei fra un attimo, le chiedo, l'ANIA era a conoscenza di questo monitoraggio, di questa indagine che IVAS stava conducendo sul tema delle polizze occulte, che poi non so se alla fine diventeranno pratiche commerciali scorrette, quando l'antitrust ci dirà che posizione prende su questa vicenda. Appunto, l'ANIA come ha accolto questa notizia? Allora, sapevamo perfettamente che c'era stata la richiesta da parte dell'IVAS ancora nell'ottobre del 2013 di dati a alle imprese per quanto riguarda diciamo il fenomeno più che delle polizze occulte, che io direi che sì, questa è la sintesi giornalistica, però in realtà se uno si legge bene l'indagine, solo alcuni casi, pochi casi, nella gran parte diciamo dei casi sono polizze innanzitutto utili, poi magari ne possiamo anche discutere, e comunque alla luce del sole, da quello che emerge nel rapporto. Dopodiché esistono delle criticità, soprattutto nei casi in cui il cliente non dovesse essere a conoscenza di come poi attivare la richiesta di rimborso, la richiesta insomma di risarcimento, e in quei casi lì sicuramente si deve lavorare. Faccio presente che comunque nel caso in cui c'è che ne so, la catena degli elettrodomestici, le public utilities, insomma dei distributori diversi dagli intermediari assicurativi soliti, loro possono distribuire questi prodotti, ma hanno comunque l'obbligo di informare il cliente sia dell'esistenza, naturalmente ci mancherebbe altro, del contratto assicurativo, sia delle condizioni, consegnando la documentazione che può essere o sintetica se la polizza diciamo è una polizza che ha un importo inferiore ai 100 euro annui, o addirittura proprio il fascicolo informativo, insomma, come un perché normale... tra l'altro non abbiamo parlato anche dei costi, no? Di che costi stiamo parlando quando parliamo di pratiche così diffuse, quanto costa ad esempio una polizza associata ad un conto corrente, adesso a prescindere dal mutuo, perché qua stiamo parlando di valori più alti e quella è una questione diversa. Qua parliamo ovviamente di operazioni di più modesta entità e importo che hanno... Sì, nel 60% dei casi, guardi, queste polizze qui hanno un costo che va fino a 30 euro, nel 6% sono addirittura dichiarate gratuite perché sono offerte diciamo come benefit da parte di chi offre il servizio principale. Per esempio, come mai questo regalo? Per motivi evidentemente di possiamo chiamarli di marketing o di rendere il proprio prodotto più appetibile. Faccio un esempio, offro questo cellulare di cui non dico il nome, e nel prezzo del cellulare è inclusa anche la garanzia assicurativa furto o guasto accidentale, pertanto lei acquistando quel cellulare automaticamente c'è anche un servizio assicurativo, sì, sono più che la copre per un anno dal furto oppure l'uso fraudolento della SIM, quindi della carta telefonica, insomma. Quindi mi viene in mente che quando per esempio andiamo al centro commerciale a comprare un prodotto di elettronica molto moderno, ci dicono c'è anche la garanzia, per in realtà è un'assicurazione, possiamo proprio banalizzarla così? Dipende, bisogna andare a vedere poi il dettaglio, o c'è una garanzia estesa magari sopportata e supportata da parte del produttore, oppure ci può essere anche una garanzia assicurativa. Sono due modi per poter offrire diciamo la garanzia o del rimpiazzo in questo caso del cellulare, certo. O insomma un rimborso in caso di malfunzionamento di prodotto. Allora, c'è un messaggino che ci arriva da Miss Fisherman, che ci un tweet tantissimo su Twitter, sì. E quindi a me l'hanno fatto obbligatoria l'assicurazione per un prestito di 20.000 euro, però poi mi hanno ripagato un giorno di malattia per intervento. Cioè tu immagina, fai un prestito, ti associano un'assicurazione, poi hai bisogno di stare un giorno in ospedale per un piccolo... Ma tu ci penseresti mai di andare a vedere se quell'assicurazione ti copre l'intervento? Perché È stata brava Miss Fisherman. Premuti, il tema è proprio questo. Come potremmo mai pensare di associare un prestito, che ne so, per la ristrutturazione della casa ad una copertura di una spesa sanitaria? Assolutamente sì, il tema è fondamentalmente questo, e non si mette mai in dubbio quello che è la garanzia assicurativa, l'utilità di avere una polizza assicurativa, perché Fisherman probabilmente adesso se ne ha dato proprio una prova diretta. Il problema, io torno a dire, è sempre lo stesso, perché anche rispetto a ciò che adesso diceva l'amico Manzato, i primi due anni di garanzia su un prodotto, quelli vanno dati per legge. Associare una polizza d'assicurazioni per la garanzia è un'assurdità, perché praticamente io sto pagando la garanzia che dovrebbe darmi per legge il venditore. Ma di che cosa parliamo? Voglio dire, è uno scherzo, io credo, a meno che non è l'estensione della garanzia per altri due anni, per altri tre anni, allora parliamo di un'altra cosa. Però A quel punto l'apparecchio che ho comprato, se parliamo di telefonini, visto che oggi uno smartphone non è così difficile che costi 5 o 600 euro, e i 30 euro rappresentano non il 5% del valore annuo dell'apparecchio, ma rappresentano un'incidenza percentuale enormemente superiore, il 20, il 30, il 40% del valore residuo del bene che ho. Ci rendiamo conto di che cosa stiamo dicendo? Allora, adesso facciamo replicare a Manzato, magari ci mettiamo insieme anche qualche altra. E poi, però, non, io ormai ho fatto l'assicurazione, ho la garanzia del. Adesso ti faccio leggere tutti gli incartamenti del mio asciugatoio, non sgridatemi e sono più tranquilla così. No, ma io vorrei capire adesso, perché ti sei posta il problema di recedere da questo contratto. No, perché dato che sai che io mi dimentico, dico adesso. Quanto tempo prima dovrò farlo? Brava. Vedi, dopo poi, stando, poi andando con lo zoppo si impara a zoppicare, mi vengono ormai queste domande da Deborah Rosciani. Tacchi che ho stamattina, zoppi così. Allora, Giuseppina? Sì. Andiamo? Giuseppina sì. Ci chiama da Varese. Buongiorno Giuseppina, benvenuta. Buongiorno a voi, un grazie e un abbraccio. Grazie, ricambiamo molto con grande piacere. Allora, la mia esperienza velocemente. Faccio un mutuo con la San Paolo di Torino, ventennale, cointestato con mio marito, sì. Coperto da un'assicurazione, la quale quota assicurativa viene pagato ogni mese no, nell'ambito della rata del mutuo. Ok, mio marito dopo 6 anni è deceduto nel giro di un mese. E vado in banca e chiedo se l'assicurazione mi copre la sua morte. Mi dicono di no perché è morto per malattia e non per colpa del mutuo, non sul lavoro. Ok, questa era una clausola messa in piccolino e a noi è passata così. Bene, ho detto allora siccome vado avanti io a pagare toglietemi almeno quello che è la parte di mio marito dell'assicurazione che pago. No, non era possibile perché a questo punto avrei dovuto rinegoziare il mio mutuo davanti a un notaio per cui mi venivano delle spese abbastanza sostenute che io non potevo sostenere. Sospiro così, Giuseppina. Curvotemazziata come si dice. Ecco. Com'è, a che punto è col mutuo Giuseppina intanto? Grazie a mio figlio l'ho chiuso 6 anni prima. Ecco, che tra l'altro è la grande battaglia che faccio anche io. Ci sono molte persone che ci dicono un po' di liquidità, che faccio, lo chiudo. Io se fosse per me me lo toglierei domattina. Sì, perché comunque un debito. Che capperi. Eccoci ritornati e ritrovati, stiamo parlando di coperture assicurative non richieste o comunque sottoscritte in modo inconsapevole dai consumatori, ma anche quando queste sono sottoscritte in maniera chiara e consapevole da parte appunto delle persone, in realtà poi quando se ne chiede l'indennizzo e il riscatto per qualche motivo, come avete sentito, in realtà non tutto fila liscio, come nel caso della nostra ascoltatrice Giuseppina, che era di, non mi ricordo, ha sottoscritto Varese. Con Torino, però lei era di Varese. Dottor Manzato, c'è un po' di materiale per lei, da che cosa vuole partire per commentare i casi? Due cose. Allora, innanzitutto le garanzie sui cellulari, sono d'accordo con l'amico Premuti sul fatto che non vanno coperta la garanzia che è dovuta, la garanzia da parte del produttore ovviamente per i primi 2 anni, ma le coperture assicurative su questo ambito specifico coprono il furto del cellulare, l'uso fraudolento della carta SIM, per cui furto della carta SIM con delle chiamate che poi ti addebitano diciamo il costo sul tuo conto, oppure il danneggiamento accidentale, quello che non è in garanzia, mi cade accidentalmente il telefono, per cui non è che si parla di comprare delle coperture assicurative che si sovrappongono in qualche modo alla garanzia che è data al produttore, per cui su questo me ne starei tranquillo. Poi invece il caso sfortunato dell'ascoltatrice Giuseppina riguarda le cosiddette polizze PPI, cioè quelle che coprono o il mutuo o il caso, coprono il debito residuo da determinati eventi. Nel dire ovviamente che sul dettaglio, nel dire che non erano oggetto queste coperture dell'indagine dell'IVAS, perché ne aveva fatta già un'indagine ad hoc su queste coperture qua, io le coperture che ho visto generalmente a copertura diciamo del debito residuo dei mutui e dei prestiti, generalmente coprono il caso di decesso del prenditore, quindi del debitore, indipendentemente dalla causa dello stesso. Ecco. In questo caso evidentemente no. no, io non conosco il caso specifico. È evidente, dovremmo vedere il contratto, però in questo caso appunto questo tipo di morte non era ricompresa, che come se uno se la potesse scegliere. Evidentemente la morte da infortunio, evidentemente da quello che posso capire, però. Poi posso anche ovviamente sbagliare. Io normalmente devo dire però che i contratti che ho visto in questo ambito avrebbero potuto coprire anche il caso della signora. Senta, Manzato, generalmente lo paga indipendentemente dalla causa. Ecco, a parte questo fatto, però, per quello che riguarda la sua seconda richiesta, dice quantomeno riducetemi il premio. Adesso a pagare sono solo io, per quale motivo devo versare anche la quota che prima era di mio marito? No, possibile che le assicurazioni non possano dotarsi di un tantino di flessibilità da questo punto di vista, rinegoziare i contratti veramente di cuore con il settore, per l'appunto, vedi? Rinegoziare caso di estinzione si ha diritto alla restituzione del premio. In caso fra l'altro anche di rinegoziazione del debito stesso si ha diritto a ricevere questo da 3 anni a questa parte, si ha diritto a ricevere la parte di premio non goduta. Certo, ormai anche questo è norma, per cui diciamo che se tutto ciò fosse capitato alla nostra ascoltatrice oggi, la sua come dire, situazione sarebbe stata gestita diversamente. L'avrebbe risolta sicuramente, sì. Allora Nicoletta, fra un po' dobbiamo salutare abbiamo il nostro prossimo ospite. I nostri abbiamo ancora un ascoltatore che vuole parlare con noi. Volentieri, e poi farei fare proprio come dire una ultima chiamata ai nostri due ospiti, due messaggi finali di consapevolezza ai nostri ascoltatori, naturalmente per poter far chiaro anche nella propria situazione. Sì. Chi è che sentiamo? Paolo. Eccolo qua, sì. Paolo, buongiorno, ci chiama da Verona. Benvenuto. Sì, buongiorno. Grazie. E volevo esporre il mio caso. E circa un paio d'anni fa ho fatto un mutuo. Su questo mutuo mi hanno costretto a fare un'assicurazione, naturalmente. Sì, sì. Questa assicurazione diceva che in caso di invalidità permanente totale, in caso di invalidità totale, l'assicurazione avrebbe pagato il mutuo residuo e tutto. Allora, è successo che dopo un anno, infarto del miocardio. Dopo 3 mesi tumore, operazione per un tumore. Insomma, questa signora è in una condizione oggettivamente difficile, quindi ha un'invalidità adesso in che misura? Allora, adesso ha un'invalidità totale data dall'INPS e permanente del 75%. Allora, l'assicurazione ci ha risposto che il loro medico ha ritenuto, in base agli incartamenti, che non fosse 75 ma inferiore al 66,6%, per cui non dovevano pagare. Ecco. Allora io dico, ma è possibile che loro, cioè non c'è un ente che decide, che è l'INPS? Come fanno loro a dirmi non stabilire, certo, perché è tra l'altro, è vero, ma le decisioni dei medici, delle assicurazioni, magari chiedo un commento ad entrambi, comincio con Premuti, hanno una validità appunto più alta rispetto a quella dell'INPS? No, assolutamente no, assolutamente no, perché parliamo comunque dell'espressione di un professionista che come tale, voglio dire, rappresenta una situazione oggettiva che è quella che gli si presenta del paziente che ha davanti. Diciamo che purtroppo però questa segue il problema che da sempre esiste delle due tabelle, quella ANIA che è, che è più bassa e quella INAIL. Mamma mia, Salvadanaio fece una puntata su questo argomento, ancora ne sento i dolori, perché fu una battaglia pazzesca tra gli assicuratori medici legali. Diciamo agli ascoltatori che quando sottoscrivono un contratto si accertassero che nel contratto è prevista la tabella INAIL, così i problemi non ce ne stanno più. Escludiamo sta tabella ANIA perché tanto, voglio dire, che i due professionisti si mettano d'accordo tra loro. È impossibile. Ma la malattia, ed è sempre la stessa, una persona quella c'ha. Allora, noi dobbiamo adesso lasciare la parola all'ospite appunto di cuore di stamattina. Volevo solo concludere con Manzato, con un ultimo messaggio. Dottor Manzato, intanto noi chiediamo alle imprese di assicurazione che si facciano carico di una campagna di informazione un po' più efficace su questo argomento, perché noi riteniamo che sia giusto assicurarsi, e perché proteggere il proprio nucleo familiare naturalmente è un impegno che dobbiamo prenderci. Detto questo, però, dovete anche farvi carico della campagna di comunicazione che gli intermediari che poi trasmettono e distribuiscono le vostre polizze, appunto, che lo facciano sapere ai propri clienti e consumatori. Che dice? Beh certo, noi nel contratto che facciamo con i distributori che ci chiedono di distribuire i nostri prodotti, chiediamo appunto al distributore stesso, che è il contraente della polizza, di seguire quelle che sono le norme, e normalmente le seguono. E quindi la cosa fondamentale, ma ripeto, anche nell'indagine dell'IVAS, insomma in larga parte tutto viene ovviamente seguito, va data pronta informativa e va detto al cliente effettivamente in maniera molto semplice com'è la procedura per poter richiedere ciò a cui si ha diritto avendo questo. E nel frattempo io e Nicoletta ci sveglieremo e andremo a controllare i contratti, ecco, lo faremo anche noi consumatori la nostra parte. Assolutamente, sì. Grazie, grazie a Fabrizio Premuti e Roberto Manzato, buona giornata ad entrambi. Adesso vediamoci chiaro da un altro punto di vista. Occhi che sanno parlare, che ti prendono così. Vediamoci chiaro, diceva Deborah. Infatti in questa seconda parte della trasmissione parliamo delle cose da sapere, dei segnali da non trascurare per tutelare la salute della retina, la parte nobile dell'occhio responsabile della visione. In linea con noi abbiamo il piacere di avere un grandissimo esperto, il professor Mario Stirpe, che è presidente della Fondazione Bietti per lo studio e la ricerca in oftalmologia, che opera da oltre 20 anni nel campo della prevenzione, dell'assistenza clinica e chirurgica e della ricerca clinica di base nella disciplina oftalmologica. Buongiorno professor Stirpe. Buongiorno, grazie a lei. Buongiorno. Siamo contenti di averla con noi. Professor Stirpe, ci sono condizioni che possono danneggiare la nostra retina e compromettere seriamente il suo funzionamento al punto da provocare una perdita parziale o totale della vista. Ma prima di parlare dei fattori di rischio e delle malattie che possono compromettere la salute di questa parte dell'occhio così importante per la nostra vista, vorrei parlare delle potenzialità diagnostiche invece della retina, perché professore, si dice spesso che l'occhio sia lo specchio dell'anima, ma potremmo anche dire che la retina sia lo specchio un po' della nostra salute. È vero che dall'osservazione di questa sorta di pellicola il medico riesce a valutare e a diagnosticare anche delle malattie che con l'occhio non sono direttamente collegabili? Non è raro ad esempio che un paziente scopra di essere iperteso facendo un esame del fondo dell'occhio, e un tempo ricordo che all'oculista capitava di fare addirittura diagnosi di diabete. Sappiamo che anche oggi però ci sono molte persone che sono diabetiche senza saperlo. Professor Stirpe. Sì, direi ancora oggi. Certamente l'occhio di per sé stesso può essere l'immagine della salute generale dell'organismo, ed in passato è stato usato molto, ma adesso viene usato nuovamente con l'introduzione di nuovi strumenti diagnostici che sono incredibilmente precisi e che ci danno delle risposte che noi stessi non aspettavamo. In passato lei sa che i medici clinici, i medici generali in genere, per avere un ragguaglio sulla circolazione del paziente, sullo stato dei vasi, soprattutto arteriosi e venosi del soggetto, e richiedevano l'esame del fondo dell'occhio. Sì. E per quale ragione richiedevano l'esame del fondo dell'occhio? Perché l'occhio in fondo è l'unico settore in cui la circolazione è allo scoperto. Quando si dilata la pupilla e si osserva la retina, si osserva la circolazione della retina, i vasi sono allo scoperto e quindi si possono trarre dei ragguagli sulla... E quindi, professor Stirpe, come si dice, vederci più chiaro, proprio attraverso le strutture oculari. Il professor Stirpe rimane con noi, subito dopo il GR parleremo anche di un esame che dovrebbe permettere di diagnosticare in futuro proprio l'Alzheimer dall'osservazione della retina. In futuro dico, ma il professor Stirpe ci racconterà come proteggere la nostra retina e i segnali da non trascurare. Via le mani dagli occhi, che senso ha se poi ti tocchi i pensieri ancora. Eccoci qua, siamo tornati insieme dopo aver parlato di chi non sa di essere assicurato. Ora nella seconda parte del programma parliamo di chi senza saperlo rischia di compromettere la salute della retina. Oggi quindi consigli salvavista col professor Mario Stirpe, presidente della Fondazione Bietti per lo studio e la ricerca in oftalmologia, che è in linea con noi. Professore, è vero che nel prossimo futuro, attraverso un esame non invasivo della retina, sarà possibile addirittura riconoscere precocemente e diagnosticare il morbo di Alzheimer, molto anni prima della comparsa dei primi sintomi? Se ne è parlato? Sì, questa è stata una notizia che ha fatto certamente molto scalpore. Bisogna pensare che questa certamente sono i primi risultati che sono allo studio e che devono anche essere valutati. Però questa notizia, che poi viene da Los Angeles, dall'Istituto Cedars-Sinai, ha mosso una serie di ricercatori nel mondo, per cui sa come succede oggi. Oggi la ricerca non è più una prerogativa solo di uno Stato, ma appena c'è un'idea questa si diffonde nel mondo e molti li abbracciano. La nostra struttura stessa ha incominciato uno studio su questa, su questo argomento, che certamente è estremamente affascinante. Estremamente affascinante perché sembra che le cellule della retina diano dei segnali più precocemente, essendo delle cellule più delicate probabilmente di quelle cerebrali, diano dei segnali che sono più precoci rispetto alle cellule cerebrali stesse. E quindi questo bisognerà poi vedere in futuro quanto questo potrà servire, se certamente, noi dobbiamo dire sempre se questa metodica prenderà piede, bisognerà vedere quanto in futuro questa potrà servire addirittura per prevenire perché qualsiasi forma è prevenibile ed è prevenibile in forme diverse. Adesso non possiamo qui molto dilungarci, ma lei pensi che soltanto l'attività mentale, lo stimolo all'attività mentale, quindi all'azione, l'interesse nelle cose eccetera, può ritardare molto alcune malattie o addirittura minimizzarle. E questa è una notizia che bisogna proprio tenere sempre, ricordare sempre e seguirla anche e trasformare un po' il nostro stile di vita. Professor Stirpe, occupiamoci adesso della retina. Quali sono i fattori di rischio che possono compromettere nel medio e lungo periodo la sua salute e il suo funzionamento? Chiamiamolo un po' per nome. Ipoteticamente, se dovessimo fare un elenco, ai primi posti chi troveremmo? Gli anni, i geni? Intanto che ci sono alcune malattie che fatalmente coinvolgono la retina. Lei sa per esempio che la retinopatia diabetica è ancora oggi, nonostante tutti gli sforzi che abbiamo fatto, nonostante le terapie siano certamente generali, siano migliorate e le nostre riescano a prevenire le manifestazioni più gravi, però oggi alla retinopatia diabetica per esempio è ancora la causa più importante di cecità o ipovegenza nei paesi più civilizzati, e questo nonostante sforzi che si stanno compiendo da oltre 30 anni. Poi che la retinopatia diabetica, intanto il diabete è la malattia che coinvolge qualsiasi età, poi c'è una prevalenza viceversa di una perdita di vista o di rischio di perdita di vista soprattutto al di sopra dei 65 anni per quella che noi oggi definiamo la maculopatia legata all'età. Ecco, questa oggi è la causa più importante di ipovegenza o di cecità al di sopra dei 60 anni, mentre il diabete coinvolge qualsiasi età. Quindi il controllo del diabete salva anche la retina, professor Stirpe? Sì. Soprattutto, bisogna, si sa generalmente, ma soprattutto lo sanno le famiglie, perché il diabete è una malattia genetica, certamente, ha delle rispondenze genetiche e si ripete familiarmente. Quindi chi ha un diabete in famiglia certamente deve iniziare i propri controlli molto precocemente. Perché? Perché qualsiasi malattia, se tu la prendi ai primi sintomi, all'inizio, riesci ad ottenere dei risultati che non sono certo quelli che ottieni quando la malattia già si è manifestata e già ha dato dei disturbi funzionali. 800 24 00 24, i nostri ascoltatori si stanno mettendo in contatto con noi, professor Stirpe, per avere da lei delucidazioni, consigli nella prima parte della trasmissione, per lanciare appunto, come si dice, il suo intervento. Abbiamo detto alle persone che sono diabetiche, agli ipertesi, ai miopi, alle persone che hanno superato gli ante, inteso come 50, di mettersi in contatto con noi. Infatti il diabete è una malattia che può danneggiare, se non controllata, la retina e quindi essere causa di ipovisione, di cecità, ma possiamo anche, non possiamo dimenticare anche l'ipertensione, perché la retina subisce anche le conseguenze dell'ipertensione. Diciamo che è una zona sensibile, particolarmente vulnerabile dalla privazione di ossigeno. Professor Stirpe, primo consiglio: misurarsi la pressione, tenerla controllata, ma che cosa si rischia? Soprattutto fare un esame del fondo dell'occhio, perché non tutti gli ipertesi poi hanno una compromissione della vista, però quando c'è una condizione che è particolare, per esempio una condizione che crea degli edemi nella retina, edemi vuol dire una diffusione di liquido negli strati della retina, certamente questo porta a un abbassamento, a una compromissione della vista. Queste sono le forme vascolari, sono le forme che frequentemente il diabete stesso, ma anche le forme vascolari che possono dare degli edemi della regione maculare. Allora, diciamo, l'intervento precoce, il conoscere precocemente che cosa sta succedendo, può far mettere in funzione dei metodi che sono i metodi generali, certamente la cura della malattia, ma anche certi mezzi locali che si espletano attraverso fotocoagulazione laser o uso oggi di sostanze che noi usiamo nella maculopatia senile, che sono iniezioni intraoculari che si fanno con delle sostanze che sono degli antiproliferativi vascolari e che hanno dimostrato anche un'azione antiedemigena. Quindi l'accorgersi precocemente, prima, diciamo, ai primi sintomi, che c'è un interessamento della parte più nobile della retina, perché poi è sempre la parte più nobile, la regione maculare, che viene compromessa. Il cuore della retina, possiamo dire, professor Stirpe? Sì, se ne pensa in tutta la distensione della retina, la macula occupa uno spazio di 5 mm e la fovea, che è il punto della visione distinta degli oggetti, occupa uno spazio di 2 mm, quindi lei può capire quanto è delicata quest'area. 349-238-6666, arrivano i messaggi anche su Facebook e su Twitter. E peschiamo subito quello che ci scrive un nostro ascoltatore, che non si firma ma ci racconta che ha 43 anni e dice: spesso vedo macchiette nere in movimento, come degli scarabocchi, sono miope, mi mancano 2,5 gradi e porto gli occhiali da 30 anni. Professor Stirpe, il messaggio del nostro ascoltatore ci suggerisce di chiederle allora quali sono i disturbi visivi che possono segnalare una sofferenza della retina: offuscamento, mosche volanti, immagini distorte, difficoltà nella lettura. Ma se vogliamo rispondere più direttamente a questa domanda, che è interessante perché è interessante sotto diversi aspetti e coinvolge anche gli aspetti stagionali, quindi soprattutto l'estate, che è alla quale stiamo andando incontro nonostante le piogge. E la visione di corpi mobili ha questo significato: la porzione interna dell'occhio, quella grande camera che è tappezzata dalla retina, è riempita da un gel, e questo gel si chiama corpo vitreo. Il corpo vitreo è un gel che va incontro a dei cambiamenti con l'età e va incontro anche a particolari cambiamenti in alcuni vizi di refrazione, per esempio la miopia, ma soprattutto la miopia elevata. Il vedere dei corpi mobili non vuol dire necessariamente che ci sia una malattia, questi causano soltanto un disturbo fastidio, e sono l'effetto di una liquefazione di questa sostanza, di questo gel, che avviene fisiologicamente. C'è una liquefazione di alcune parti, un addensamento di fibrille, queste con una luce adeguata si riflettono sulla retina e danno l'impressione di mosche volanti, di qualche volta di nuvole, vermicelli, ciascuno li descrive a un suo modo. I coriandoli anche. I coriandoli. Esatto. Professore, abbiamo le telefonate dei nostri ascoltatori, ma lei ha accennato all'estate. E quindi è importante proteggersi dai raggi ultravioletti, abbiamo dedicato una puntata proprio a questo tema per ricordare che i raggi ultravioletti non provocano solo congiuntiviti ma possono danneggiare proprio le fibre nervose della retina, e quindi proteggersi con occhiali da sole garantite dagli ottici selettivi per i raggi ultravioletti è indispensabile. Ma professore, ci sono persone per cui questa raccomandazione è particolarmente importante e per le quali sono consigliati lenti particolari? Ecco, diciamo innanzitutto che la protezione dalla luce è una cosa che si dovrebbe fare sistematicamente anche nell'età più giovani. Perché? Perché la prevenzione generalmente, soprattutto per alcune forme, parliamo delle forme che sono maggiormente colpite, diciamo che colpiscono maggiormente la retina. E per esempio la distrofia maculare o la degenerazione maculare, la prevenzione di queste forme, che non si può fare certamente a 60 anni, bisogna cominciare a farla a 30 anni, e 30 anni si fa come? Con una dieta adeguata, non fumando e proteggendosi anche dalla luce in una maniera adeguata. Adesso i raggi ultravioletti certamente producono un'azione lesiva, soprattutto a seconda delle esposizioni, sulla parte centrale della retina. Oggi sono state create sono stati creati dei mezzi protettivi, delle lenti che noi chiamiamo fotoselettive. Fotoselettive perché? Perché selezionano lo spettro luminoso, bloccando soprattutto quella parte dello spettro luminoso che è più dannoso per la retina. Allora, una persona che ad un esame del fondo oculare diciamo manifesta un movimento di pigmento, una perdita di pigmento della retina, oppure una persona che è predisposta ad una maculopatia o peggio ancora che ha una maculopatia, certamente deve proteggersi maggiormente dalla luce. Credo che abbiamo risposto allora, Stefano, che sul nostro profilo Facebook professor Stirpe chiedeva: le nuove lenti da vista che filtrano la luce blu-violetto funzionano, e da che età si dovrebbero iniziare a prendere in considerazione? Guardi, io le sostituirei generalmente agli occhiali da sole, perché avere una protezione precoce, uno non sa mai suo organismo non sbaglia. Come risponde, sì, non sbaglia mai. Certo, queste hanno qualche effetto negativo. Qual è l'effetto negativo? Intanto che a molti non piacciono esteticamente, perché le danno sul rosato, sull'arancione. Poi certamente bloccando una parte dello spettro luminoso alterano un pochino i colori, sì. E questo naturalmente per chi ama guardare la natura nella sua essenza propria può dar fastidio e non lo gradisce, però insomma sono dei piccoli disturbi, insomma è un piccolo compromesso, no? Sì, a cui si sì. può arrivare. Professore, è vero che chi si è sottoposto a un intervento di cataratta è più sensibile agli effetti dei raggi ultravioletti, e quindi nell'elenco delle persone a cui è consigliato portare le lenti fotoselettive dovrebbe mettere anche le persone che si sono sottoposte a questo intervento? Sì, è vero, tant'è vero che lei sa che quando si effettua un intervento di cataratta il cristallino naturale viene sostituito da una lentina. Ecco, noi oggi la lentina che impiantiamo è una lentina trattata, è una lentina già trattata per la protezione dei raggi ultravioletti. Non ha probabilmente la stessa possibilità di protezione del cristallino naturale, che certamente ha altri poteri. Però è una difesa che certamente oggi funziona meglio di quanto non fosse in passato, quando impiantavamo delle lenti perfettamente trasparenti. Professore, mi soffermo un attimo sulla cataratta, che è un intervento che si pensava un tempo che riguardasse solamente le persone avanti negli anni, perché tra l'altro la cataratta si diceva si va operata quando è matura. In realtà adesso gli interventi di cataratta vengono eseguiti anche su persone un pochino più giovani, ed è vero che l'intervento potrebbe slatentizzare una maculopatia silente, e nel caso ci sono dei controlli o procedure che riducono questo rischio? Intanto sì, questo può avvenire naturalmente ad una certa età, per la cataratta purtroppo oggi viene anche ai giovani, e naturalmente nei giovani lo sviluppo di una maculopatia è meno, meno possibile. Però noi abbiamo purtroppo avuto questa sorpresa di avere un miglioramento immediato dopo un intervento di cataratta e poi un peggioramento, e ci siamo accorti che questo peggioramento dipendeva dal fatto che si era manifestato una maculopatia. Noi dobbiamo dire questo, che certamente se si manifesta una maculopatia dopo un intervento di cataratta, la maculopatia era già allo stato latente. Negli strati retinici, diciamo al di sotto della retina, e questo l'intervento della cataratta è l'occasione per uno scompenso. Perché uno scompenso? Perché nonostante l'intervento di cataratta venga ritenuto un fatto banale, durante l'intervento di cataratta si liberano delle sostanze. Queste sostanze sono le prostaglandine, che molti conoscono perché danno manifestazioni diverse nell'organismo. Le prostaglandine producono una vasodilatazione, quindi una membrana, sa che nella degenerazione maculare le membrane sono membrane vascolari, sì. sono costituite da vasi di nuova formazione, quindi estremamente sensibili, estremamente fragili. Quindi la liberazione di questa sostanza produce una vasodilatazione, quindi un edema e quindi la manifestazione di una maculopatia. Ci sono delle procedure per evitare questo o è inevitabile? Cioè ogni intervento di cataratta presenta e mantiene questa percentuale di rischio? Noi dobbiamo dire questo, che se una maculopatia si manifesta, prima o poi si manifesta. Doveva farlo. Ecco, quindi questo dovrebbe consolare purtroppo le persone a cui è accaduto. Professore, Ci sono delle sostanze certamente che sono antiedemigene, sono delle gocce che noi diamo e che diciamo sono protettive verso l'edema, sono antiedemigene, e quelle vale la pena comunque di darle. Abbiamo fatto un po' aspettare i nostri ascoltatori, ma adesso rimediamo immediatamente, e siccome Cuore Denari è una trasmissione cavaliere, anche se femminile, Emilia da Napoli ha la precedenza su Enrico da Palermo. Emilia, buongiorno. Salve, buongiorno. Buongiorno. Allora, intanto grazie di questa opportunità di parlare col professor Sirpe. La mia richiesta, la mia domanda è molto in linea con l'ultima cosa che stavate dicendo. Io sono molto miope, ho 61 anni, però sono più di 30 anni che convivo non solo con questa miopia molto alta, ma anche con una maculopatia. Tra l'altro ho avuto una forte emorragia retinica all'occhio sinistro, e quindi con l'occhio sinistro praticamente non vedo. Mi è rimasto un po' il campo visivo, però al centro la macula è rovinata. È compromessa. È compromessa. E adesso, ora poi da un po' di anni ho anche la pressione degli occhi aumentata, quindi metto le gocce. Emilia, venga la domanda, perché abbiamo... La domanda è questa: 61 anni, problema delle cataratte. Sì. Io sono terrorizzata dal fare l'intervento di cataratta. Di cataratta. Terrorizzata. Non so se continuare a non, insomma, a stare con le cataratte, quindi la miopia che mi aumenta, eccetera, oppure decidersi a eseguire questo intervento. Professor Sirpe, se possiamo dare una risposta rapida ad Emilia per passare poi ad Enrico. Diciamo che tanto se la cataratta c'è, o prima o poi andrà avanti, quindi ritardare l'intervento poi non è una soluzione che non risolve. Certamente l'intervento di cataratta nel miope elevato è un intervento molto più delicato, non per la condizione intraoperatoria, un intervento come gli altri, ma per quello che può accadere successivamente, cioè sono occhi che sono un pochino più lunghi, più predisposti, vero, al distacco di retina. Ci sono delle membrane neovascolari, queste si possono scompensare. Però la signora diceva che lei ha avuto una cicatrice dovuta ad una membrana neovascolare. Non so quando l'abbia avuta, perché oggi con le terapie intraoculari, cioè con le sostanze antiproliferative vascolari, noi otteniamo dei risultati molto lusinghieri nei miopi. Il miope che se ne accorge precocemente riesce a riacquistare spesso la vista completamente. Professore, chiederei ad Enrico da Palermo di scrivere scriverci una mail e la gireremo naturalmente al professor Stirpe. 30 secondi, professor Stirpe, abbiamo detto i segnali, le mosche volanti non devono preoccuparci, ma quali sono i segnali chiari che ci devono invitare a fare una visita oculistica? E quindi sono segnali che raccontano un po' una sofferenza della retina, immagini distorte? Sì, l'immagine distorta, lei ha parlato prima di mosche volanti. Sì. Nelle mosche volanti diciamo, il sintomo che deve preoccupare è la visione di quelli che noi chiamiamo fosfeni, cioè i lampi che si manifestano lateralmente all'occhio. Lì vuol dire che insieme alla colliquazione del vitreo c'è un'attrazione sulla retina, la quale può determinare una rottura e quindi conseguentemente un distacco di retina. Il lampo quindi, sull'occhio dunque. Quindi quando le mosche volanti diventano lampi, a lampi, e allora bisogna fare un esame accurato del fondo oculare. Grazie al professor Mario Stirpe per essere stato con noi, gli auguriamo una buona giornata e speriamo di averlo presto nostro ospite. Certamente, anche perché è un tema molto apprezzato dagli ascoltatori. Noi naturalmente torniamo domani, grazie a Laura Vanossi, Marco Lombardo, Gianmarco Ferronato. A domani, Nicoletta. A domani.